Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da dottore di famiglia con il numero massimo di pazienti a gettonista, la storia di una giovane donna medico. Anche a Trieste si afferma una nuova tendenza dell'ospitalità, stanze ed albergo affittate per uso diurno. Migranti, ma non solo, di loro si occupa la rete di volontariato sanitario DONC, che a Trieste ha da oggi una nuova casa. La cabina di Fontana Fredda, nodo fondamentale di distribuzione elettrica. Il sindaco: non abbiamo potere di veto. 53enne di Monfalcone arrestato a Gorizia con oltre 30 grammi di eroina. È stato individuato dalla squadra mobile. Da Message in Bottola a Fragile in 10.000 a Villa Manin per Sting, concerto punta di diamante di Go 2025 and Friends. Buongiorno dal giornale radio del Friuli Venezia Giulia. In studio Dario Ronzoni. Continua in consiglio regionale l'attività in vista dell'assestamento di fine luglio. Dalle 10 la prima commissione riunita per l'esame dell'intera manovra. Si avvia a conclusione nella prima commissione integrata del Consiglio regionale il disegno di legge di assestamento di bilancio, che in totale assommerà risorse per 1.400.000 euro. Gli emendamenti approvati nella seduta di questa mattina riguardano i temi dell'agricoltura, degli enti locali e del patrimonio immobiliare regionale. Su questo fronte il provvedimento approvato riguarda lo stanziamento di ulteriori 648.000 euro per i lavori nell'ex sede della regione di Udine in via San Francesco, in fase di ristrutturazione e destinata a ospitare gli uffici di Insiel. Per quanto riguarda l'agricoltura, è invece previsto un aumento di 1.750.000 euro dei fondi destinati a finanziare le domande di installazione di impianti fotovoltaici in base al bando regionale del 2023. Infine, in ambito di enti locali, gli emendamenti approvati riguardano il finanziamento destinato al Festival Internazionale delle Lingue Minoritarie di Cormons. A questo scopo saranno destinati 50.000 euro al Comune di Cormons e 150.000 al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Il dibattito è ancora in corso e terminerà nel corso della giornata odierna con l'approvazione finale da parte della Commissione. Trieste, Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Dietro alla grave carenza di medici di famiglia e al problema della medicina generale che attrae sempre meno giovani, ci sono anche le difficoltà che stanno affrontando le giovani donne divenute ormai prevalenti in questa professione, come attesta la storia di una di loro che ha dato le dimissioni da medico di famiglia con in carico il massimo numero di pazienti a tempo indeterminato con proprio ambulatorio in convenzione in Friuli per fare la gettonista negli ambulatori straordinari di assistenza primaria aperti da Assugi nell'Isontino per tamponare la carenza di medici. Sentiamo. 36 anni, medico di famiglia udinese, Ludovica Pagliano è al suo primo giorno di lavoro con incarico temporaneo a Ore nell'ASAP, l'ambulatorio straordinario di assistenza primaria di Gradisca di Sonzo, dove si è trasferita dopo aver chiuso il suo ambulatorio convenzionato da 1.500 assistiti, aperto 2 anni e mezzo fa a Lestizza, in Friuli, e rinunciato al suo incarico di massimalista a tempo indeterminato. Una scelta molto sofferta. Come medico di medicina generale, le ore lavorative, il carico di lavoro era sproporzionato senza dubbio alle mie forze. Sapevo quando entravo in ambulatorio, mai sapevo quando sarei uscita, lavoravo anche 12-13 ore al giorno. Lei tra l'altro ha una famiglia, figli? Sì, ho 3 bambini. Era diventato impossibile per me gestire il mio tempo personale e familiare, per cui ho deciso a malincuore di lasciare l'incarico. Oggi per 24 ore settimanali condivide l'ASAP e i 1.500 assistiti che vi afferiscono con un altro medico incaricato e qualche gettonista che con lei si alternano nella copertura dei turni. Cosa le offre questa posizione? Un lavoro che è molto simile, se non identico a quello che facevo prima, con la possibilità però di lavorare su turni e quindi avere appunto un orario di lavoro ben definito. La condizione economica è la stessa? Quando si ha un ambulatorio di medicina generale ci sono delle spese da sostenere che invece nel caso di un ambulatorio come questo non sono da sostenere. Anche se è presto per fare un raffronto con la vita di prima, quella attuale già le appare migliore. Mi sembra sicuramente più sostenibile come tipo di lavoro. C'è anche la condivisione con altri colleghi, non ci si sente tanto abbandonati. In una professione che è sempre più declinata al femminile, difficoltà e scelte come le sue sono diffuse. Siamo in tante e c'è tanto malcontento tra tutte le colleghe di questa generazione. Aprire un ambulatorio di medicina generale in questo momento per chi ha una famiglia e bambini piccoli è chiaramente un bel carico. Molte stanno decidendo di attendere e di non farlo. Che cosa ci vorrebbe secondo lei? Più tutele, soprattutto per la questione anche maternità, figli, famiglia, un giusto rapporto tra le ore lavorate e le ore di vita personale. Si auspica che insomma ci siano degli interventi in tal senso. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La nuova tendenza alberghiera si chiama Day Use Hotel, vendere stanze per alcune ore durante il giorno a diverse tipologie di clienti. Un fenomeno in aumento anche a Trieste, come conferma Maurizio Giudici, presidente Federalberghi Trieste. Una volta li chiamavano alberghi a ore, erano piuttosto modesti e in zone solitamente defilate per assolvere alla loro unica funzione, ospitare coppie in cerca di privacy. Oggi, soprattutto gli alberghi più stellati offrono stanze per poche ore durante il giorno con sconti dal 25 al 50%. L'organica dell'albergo deve consentire di poter intervenire nelle camere anche nel check-out del day use, che normalmente è fra le 17 e le 18 di sera, e quindi la camera deve essere ovviamente ripulita e rimessa in vendita. Questo vuol dire aumentare l'occupazione dell'albergo? Questo vuol dire massimizzare l'occupazione dell'albergo. Certo, è sempre una strategia, normalmente c'è un numero di camere limitato a questo tipo di accoglienza, e sta nella strategia del manager di gestione dell'hotel calibrare quante camere e soprattutto in che periodo offrire questo tipo di ospitalità. Il nuovo trend si chiama Day Break Hotel o Day Use Hotel e utilizza anche app e prenotazioni online dove si reclamizzano servizi esclusivi come accessi a piscina e spa o vasca idromassaggio privata per una sorpresa romantica, leggiamo, da organizzare nella propria città. Gli albergatori glissano sulla sorpresa romantica anche per tutelare la privacy dei frequentatori e fanno riferimento ad altri tipologie di clienti mordi e fuggi. I conducenti degli autobus che magari affrontano un viaggio notturno finiscono le ore di operatività che hanno, arrivano nelle città di giorno e hanno la necessità di riposare e di farsi una doccia. Piloti dell'aeroporto, come personale delle ferrovie dello Stato, e in una città in una destinazione turistica è, come dire, una prassi che aumenta e una clientela che aumenta in proporzione allo sviluppo turistico della destinazione. Alessandra Zigaina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è stata inaugurata oggi a Trieste Casa Donc, nuovo spazio multifunzionale dove i volontari danno supporto sociosanitario alle persone più fragili. Ci ha raggiunto in studio Andrea Saule che ci parla di quello che è successo oggi. Sì, siamo appena tornati da qui vicino da Via Udine, il Civico 11, dove apre appunto questo presidio di Casa Donc, che è un centro di prossimità accessibile, polifunzionale, concepito un po' come un punto di riferimento, e offrirà alle persone più fragili, non solo straniere, assistenza sociosanitaria a bassa soglia. E questo spazio si fortifica anche la collaborazione di Donc con l'agenzia ONU per i rifugiati. La nuova sede avrà a disposizione un servizio infermieristico con medicazioni, un supporto nella somministrazione dei farmaci acquistati insieme al materiale sanitario grazie al contributo della Fondazione CR Trieste. Ci sarà anche un ambulatorio per consultazioni medico-sanitarie dotato di ecografo e strumentazione per diagnosi. Di fronte al crescente numero di visite psicologiche, che sono state ben 151 da gennaio a giugno 2025, Casa Donc ha anche voluto garantire un servizio psicologico gratuito grazie alla presenza di un'equipe di professionisti con 2 psichiatri, 2 psicoterapeuti, 3 psicologi e 13 mediatori culturali. E il fine ultimo, infatti, quello di garantire il diritto alla salute psicofisica di tutti, con attenzione particolare per i minori stranieri non accompagnati. Ci sarà anche uno studio con un odontoiatra per delle visite e le cure. Sostanzialmente le persone che arrivano alla rotta balcanica sono in leggero calo, ma di questo parleremo sicuramente nelle prossime edizioni. Grazie ad Andrea Saule. Continuiamo con la cronaca. È stato arrestato per droga un 53enne residente a Monfalcone. Sarebbe stato lui a lasciare un involucro contenente 33 grammi di eroina appena dopo essere stato in territorio italiano dalla Slovenia. La squadra mobile di Gorizia lo ha fermato in via Montesanto durante un servizio di controllo del territorio in borghese. Gli agenti avevano notato un movimento insolito e repentino da parte dell'uomo e hanno quindi trovato il pacchetto che, analizzato dalla scientifica, si è rivelato essere appunto eroina, subito messa sotto sequestro. Nei primi 4 mesi dell'anno la polizia locale di Trieste e in particolare il distretto competente sull'altopiano Carsico in collaborazione con il nucleo polizia ambientale ha effettuato una serie di controlli sullo smaltimento e la gestione dei rifiuti. Numerosi soggetti controllati e identificati. 4 persone sono state denunciate a piede libero, una per abbandono di un grosso quantitativo di parabrezza di automobili in un'isola ecologica, 3 per reati connessi all'illecita gestione dei rifiuti da parte di imprese. Accertate anche 2 violazioni per trasporto rifiuti non pericolosi senza la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e violazioni del regolamento comunale per mancata differenziazione, per aver gettato rifiuti prodotti fuori dal territorio comunale nelle isole del comune di Trieste e per l'uso dei cassonetti normali per rifiuti ingombranti. A Fontana Fredda è polemica sulla realizzazione già in corso della nuova cabina per la distribuzione dell'energia elettrica. Il municipio spiega: non c'è potere di veto, la competenza autorizzativa è regionale e l'opera risponde a esigenze di interesse pubblico sovracomunale. Il cantiere è all'inizio ma procede spedito a Fontana Fredda, una decina di chilometri ad ovest di Pordenone. Qui Edistribuzione sta costruendo una delle 2 cabine primarie finanziate con il PNRR in Friuli Venezia Giulia. Sono strutture che trasformano la tensione da alta a media, necessarie per far fronte alla crescente elettrificazione dovuta anche alle necessità della transizione energetica, in un momento peraltro in cui le case sono diventate punti di produzione dell'energia con il fotovoltaico. L'avvio del cantiere nel mese di giugno ha portato a una sollevazione del condominio che sorge ad alcune decine di metri dall'opera. Le 63 famiglie della residenza hanno inviato una lettera indirizzata al comune in cui si chiede perché l'impianto non sia stato progettato un po' più in là, all'interno dello stesso appezzamento. Riteniamo fosse doveroso che la nostra amministrazione, intera amministrazione, facesse delle osservazioni in proposito e soprattutto che portasse noi come residenti di questo posto, a conoscenza di questo progetto. La collocazione dell'impianto è frutto di una trattativa privata tra Edistribuzione e il proprietario del terreno. Il comune non aveva alcuna possibilità di esprimere un veto, ma solo di partecipare alla conferenza dei servizi con eventuali osservazioni prive di efficacia vincolante, replica il sindaco Marco Pegolo. Dopo le proteste dei residenti, il primo cittadino ha concordato con Enel una mascheratura verde per ridurre l'impatto paesaggistico e ha sollecitato misurazioni da parte di ARPA del campo elettromagnetico che è atteso essere ampiamente sotto i limiti di legge. C'è già la presenza, non è un caso che la cabina venga fatta lì, di una linea di 132.000 volts, quindi bisogna capire adesso e sicuramente rifaremo fare queste misurazioni ex post, quindi dopo aver costruito questa cabina. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Un anno finalmente remunerativo per gli allevatori di bovine da latte. Il 2024, il primo anno nella storia della zootecnia italiana in cui si sono raggiunti prezzi importanti e soprattutto stabili. A ricordarlo nel corso dell'assemblea dei soci è stato il presidente dell'Associazione Allevatori Friuli Venezia Giulia, Renzo Olivoni. Lo scorso anno, dopo un primo semestre con prezzi in crescita costante, culminati a giugno con un prezzo medio del latte alla stalla di 53 centesimi al litro, il trend si è rafforzato anche nella seconda parte dell'anno, arrivando a 58 centesimi al litro e ai 60 mantenuti in tutti i primi 6 mesi di quest'anno. Per quanto riguarda le consegne, nel 2024 si è recuperato l'1,20% dopo il calo di oltre 7,5 punti nel 2023. I dati del primo quadrimestre di quest'anno indicano stabilità rispetto allo scorso anno. Sul fronte delle vendite online, la piattaforma web per il commercio elettronico Fattorie Friulane, che conta più di 60 imprese aderenti, ha incrementato le vendite dei prodotti inseriti con oltre 124.000 euro lordi di vendite contro i 48.000 del 2023, una crescita di oltre il 150%. 12:44, diamo uno sguardo al tempo con cielo sereno su gran parte della regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 23,5 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 26 gradi, Gorizia 25, Udine 24 gradi, Pordenone 23, a Tolmezzo 21, Treviso 20 gradi, Forlì di Sopra 18, Piancavallo 14,5 gradi, a Sappada 14, sullo Zoncolan 12 gradi e sul 10, sulla costa Grado 24 gradi con temperatura del mare di 24 gradi, a Lignano 23 gradi con temperatura del mare uguale di 23 gradi. Le previsioni dell'ARPA, questo pomeriggio prevalenza di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime in pianura e sulla zona montana ben al di sotto della norma del periodo. In quota le temperature saranno basse per il periodo anche di giorno, 20 di brezza. Domani al mattino cielo in genere poco nuvoloso e tempo stabile. Nel pomeriggio variabilità con la possibilità di qualche pioggia sulle Alpi e di qualche rovescio o temporale sparso tra pianura e prealpi che in seguito non è escluso possano interessare zone di costa. E siamo alla musica. Ieri sera uno degli eventi più attesi dell'estate, il concerto di Sting a Villa Manin a Passariano. Sentiamo. Si comincia da Message in a Bottle, si finisce con Fragile. In mezzo tanta roba dei Police e altrettanta di una carriera solistica fatta di un numero di successi difficile da contare. È questo il concerto Sting 3.0 che accende i 10.000 di Villa Manin e di più non ce ne stavano, con i biglietti introvabili ormai da un po'. Accanto al musicista inglese che imbraccia il basso come agli esordi, un compagno di strada di lunga data come Dominic Miller alle chitarre e un session man di livello assoluto come Chris Mas alla batteria, chiamati non tanto a ricostruire il sound dei Police o dei vari supergruppi che hanno accompagnato Sting in 40 anni, che è una cosa che non si può fare, quanto a restituirne l'energia. Concerto che era una delle punte di diamante di Go 2025 and Friends, la stagione musicale pensata come accompagnamento sul territorio all'avventura di Nova Gorizia e Gorizia come capitale europea della cultura. E di fatto il concerto ha richiamato un sacco di gente da fuori, dalla Slovenia appunto, ma anche dal resto d'Italia, con il vicino Veneto a fare la parte del leone. Il tour di Sting 3.0 è partito da Hannover in Germania un mese fa e toccherà oltre all'Europa, l'Estremo Oriente e gli Stati Uniti, per chiudersi nel prossimo marzo con una residenza musicale di 20 giorni a Parigi. Andrea Vardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora alcuni appuntamenti con gli spettacoli. Lunatico Festival ospita De Borgo, Indagine Lampo a Borgo San Sergio, spettacolo degli uomini nato da un'indagine sul campo nel quartiere triestino. Testimonianze reali, umanità marginale e vita quotidiana in una restituzione teatrale intensa e coinvolgente. Prosegue con una nuova proposta teatrale, Scenario d'estate, il cartellone del Piccolo Teatro Città di Sacile, che riunisce gli spettacoli en plein air a Sacile, Budoia e Polcenigo. Questa sera a Sacile, in corte ai ragazzoni, alle 21:15, la compagnia stabile del Leonardo di Ponzano Veneto metterà in scena La scuola dei mariti, commedia di Molière, allestita con la regia di Alessandro Pietropoli. A Festil, Festival Estivo del Litorale, va in scena Udine in prima nazionale al Teatro San Giorgio alle 18, uno spettacolo to public per adulti e bambini dai 4 anni su Sei ancora verde di Peja Gvozdic e Giulio VII, prodotto da Zakon Theater in collaborazione con Contatto Teatro Estate. Note in città propone invece al Centro Scrosoppi di Orzano la Gorizia Guitar Orchestra alle 20. Primo appuntamento di Percorsi Incrociati, performance site specific itinerante proposta da Molino Rosenkranz in 4 date, 4 siti diversi con il collettivo Azioni Fuori Posto e Musica dal Vivo. Questa sera alle 20 a Villanova di San Daniele del Friuli nella chiesetta di San Giacomo introduce Marco Pascoli, esperto storico e autore. Ed è stato presentato oggi a Milano il programma della 26esima edizione di Pordenone Legge, il festival che quest'anno sarà rinominato Festa del Libro e della Libertà e che durerà dal 17 al 21 settembre. Abbiamo intervistato il direttore artistico Gianmario Villalta, che ci ha spiegato perché Pordenone Legge punta a trasformare e coinvolgere l'intera città. Non è che c'è un festival a Pordenone, è Pordenone che diventa una città festival. Questa è una cosa che era nel progetto originale, che è stata perseguita, che è stata ottenuta, e significa che tutta la città partecipa e che ogni parte di Pordenone, appunto, ogni attività, ogni momento si caratterizza non solo per gli appuntamenti diffusi in tutta la città, ma anche per un momento, una presenza, per una vivacità di partecipazione che fa un'atmosfera speciale. Poi quest'anno abbiamo chiaramente due temi, una riguarda l'Europa, quindi il dialogo con l'Europa si intitola, e gli abbiamo dedicato una Arena Europa, cioè una struttura proprio adeguata e propria dove metteremo molti di questi appuntamenti. L'altro tema importante è quello che riguarda l'intelligenza artificiale, di cui tutti parliamo, a volte anche senza, diciamo, generalmente approfondire la conoscenza del fatto. Quello che proponiamo di fondo, quello che a noi interessa, è un discorso di trasmissione tra il libro e la letteratura, il mondo della conoscenza che passava attraverso il libro, e la continuità che sarà necessaria, perché sennò si perde un patrimonio chiaramente antropologico. E quindi proporremo esperimenti, anche dei siti interattivi, delle postazioni interattive in cui si potrà vedere come si può lavorare con l'intelligenza artificiale e cosa può produrre l'intelligenza artificiale. Continuiamo con gli spettacoli. Pasolini in Friuli, Canti di guerra e di genti, è l'omaggio a Pierpaolo Pasolini in uno dei luoghi che ha più amato, la Versuta di Casarsa della Delizia. Alle 21 in piazzetta della chiesa di Sant'Antonio Abate andrà in scena il musical ideato e realizzato dal coro Vous dal Tilimente di San Vito al Tagliamento. L'iniziativa è stata realizzata con il contributo del Consiglio regionale, il patrocinio di Casarsa, del comune di Casarsa della Delizia, ed è organizzata dall'associazione culturale e ricreativa La Beorchia di Versuta. Andrea Francescutto è componente del gruppo di lavoro, oltre che del coro, che ha progettato lo spettacolo e ci racconta proprio come è nato questo spettacolo. L'idea iniziale del progetto è del presidente del coro Gregory Pasut, nativo di Versuta, una borgata friulana dove Pasolini ha vissuto a lungo. Si è partiti immediatamente col progetto assegnando a due musicisti, Daniele Toffolo e Roberto Brisotto, il compito di scrivere e musicare delle tre poesie in friulano casarsese di Pasolini. In scena ci sarà una sequenza di istantanee proprio sul Friuli. Come saranno rappresentate? Il gruppo di lavoro che si è costituito per realizzare questo progetto ha voluto presentare proprio questa sequenza di immagini del Friuli, che sono costituite da poesie o scritti di Pasolini, sulle quali vengono proiettate delle immagini coerenti, fra cui delle meravigliose foto d'epoca del maestro Elio Ciol. Ci sono delle letture che vengono lette dall'attore Claudio Moretti, con un sottofondo musicale di violino e fisarmonica assicurato dai musicisti Oscar Pauletto e Silvio Cantarutti. Da parte vostra, com'è stato vivere questo viaggio in questo spettacolo, tutti i preparativi? Siete stati veramente emotivamente anche coinvolti? Gran parte dei coristi vive tra Valvasone e Cordovado, dove ci sono ancora oggi tante testimonianze dirette di persone che hanno conosciuto Pasolini, ma soprattutto moltissimi coristi abbiamo scoperto che conoscevano molto bene gli scritti di Pasolini, in particolare Il sogno di una cosa, e abbiamo avuto anche modo di conoscere altri autori della cavenuta vilenga friulana fondata da Pasolini, tipo Ovidio Colussi, di cui abbiamo scelto una bellissima poesia che viene rappresentata nello spettacolo, che è La Vendema d'Oro. Anche lì veramente è per noi molto emozionante, perché si descrivono luoghi, situazioni e tradizioni nostre, dei nostri padri. Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Walter Vidonis e Riccardo Stoic. In redazione ha collaborato Paolo Nuzzo. La nostra informazione torna in TV con il telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio con il GR in onda su queste frequenze alle 15. Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle notizie sui profili Facebook, Twitter e Instagram della nostra redazione e sul sito. Per raggiungerlo basta scrivere nella barra internet Rai TGR FVG. Da Dario Ronzoni e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.